Ciao Eleonora, ciao a tutti. Carlo, puoi raccontarci come nasce l'idea di questo evento e cosa significa esplorare la musica al tempo di TikTok? Insieme all'Istituto Parri di Bologna e a Roberto Lanzarini, negli ultimi anni abbiamo spesso organizzato degli incontri che mettessero insieme la storia e la musica. Voci Virali è proprio pensato per aggiungere a questo paesaggio anche le piattaforme digitali. Quindi la nostra volontà è quella di provare a capire come attraverso un content creator che secondo noi è praticamente perfetto per raccontare questo tipo di storie, cioè Ian Karm, provare a capire come appunto anche attraverso una piattaforma come TikTok possano emergere delle storie legate agli album e agli artisti che facciano per l'appunto dialogare la storia, quindi in questo caso la storia soprattutto dell'America nera, con tanto altro, anche con l'industria discografica ad esempio, ma non solo. E uno degli aspetti che sarà toccato, come ho visto, è anche il contesto storico dietro ogni disco. Perché credi che sia così importante integrare storia e musica, soprattutto per un pubblico giovane? Io, facendo il giornalista da quando ho 22 anni, adesso ahimè ne ho 38, ma facendo anche l'insegnante, quindi i miei alunni diciamo che vanno dai 14 ai 18-20 anni, quando purtroppo si beccano un paio di bocciature, però non sono io a bocciarli, scherzi a parte, ho sempre capito che la musica era una chiave per poter parlare di storia e poter ragionare sul nostro passato, sul nostro presente e in qualche modo intravedere anche il futuro. La storia è un modo praticamente perfetto e anche abbastanza semplice da approcciare per giovani e giovanissimi, per fare in modo che anche loro, attraverso un album che è contestualizzato in un preciso momento e in un preciso luogo, possano capire come non c'è musica senza un contesto storico, che io parlo soprattutto di rap in questo caso, visto che dialogheremo con Ian Karm, che è un esperto di rap. Non c'è una musica come il rap che possa raccontare la realtà senza la storia che ci sta intorno. E cosa ti aspetti da questo pubblico, di questo evento? Io mi aspetto, come spesso mi capita quando dialogo con ragazzi giovani, quindi anche con adolescenti, tantissima curiosità che purtroppo a volte le persone un po' più grandi, comprese quelle della mia generazione, non hanno. Quindi, a parte la curiosità, la volontà di approfondire appunto discorsi che partono molto spesso neanche da un album, a volte anche da un brano intercettato per caso su appunto una piattaforma, e da lì partire per un viaggio insieme a me, a Ian Karm e all'Istituto Parri e capire come attorno a quel brano ci sia un'incredibile costruzione storico e culturale che può aprire tantissime altre porte e tantissimi altri suggerimenti musicali. Sentiamo invece cosa ne pensa anche Ian Karm, il TikToker che sarà presente all'evento. Gli eventi come questo, secondo me, permettono alla musica di interagire con la storia in modo unico, perché l'hip hop come genere musicale, diciamo che ha sempre parlato, no, degli eventi storici e culturali, e ascoltando questo genere di musica uno può anche riflettere sul suo passato e il suo presente. In questo modo la musica non solo racconta la storia, ma la rende parte della nostra esperienza quotidiana. E quindi dove possiamo trovare più informazioni sull'evento e come possiamo partecipare soprattutto? Allora, è facilissimo, perché basta venire all'Istituto Parri nel pomeriggio del 3, l'ingresso è gratuito, non ci sono assolutamente limitazioni né di posti né di prenotazioni, però per essere sicuri si può andare su Instagram, su quello dell'Istituto Parri, di Ian Karm o il mio, lì ci sono anche riferimenti telefonici per poter concordare insieme allo staff del Parri tutto quello che può essere utile per organizzare il pomeriggio insieme a noi. Per il resto basta giusto seguirci sui social per ogni aggiornamento e venire a trovarci quella sera all'Istituto Parri. Benissimo, ringraziamo Carlo Babando per essere stato qui con noi e quindi vi ricordiamo l'appuntamento di Voci Virali, raccontare la musica al tempo di TikTok, martedì 3 dicembre alle ore 18 presso l'Istituto Storico Parri qui a Bologna. Grazie Carlo. Grazie a te, grazie a voi, ciao.